E questo è un piccolo frammento della vita di Alice, ragazza tredicenne, rimasta incinta troppo presto, ma ora sorride, ora è felice e lei è Alice. Piccola Alice, tu che cosa fai in cucina? Piccola Alice, tu sei una bimba cattiva. Alice va alle medie, quest'anno fa gli esami, imbratta muri di vernice, cuce gli origami, ha una cicatrice, Pippa Coca non lo dice, si ubriaca di sambuca e butta tutto in lavatrice, suona la chitarra, le canzoni dei Nirvana, mangia pizza e fredde chiacchiere da una settimana, a scuola la pugnano col ragazzo nella mano, con l'iPod durante l'ora d'italiano è una frana. Svegliati, è primavera, dai, luci, case, miele intorno, l'aria profuma di fiori, gli occhi tuoi, ciliegie al tramonto. Svegliati, è primavera, dai, luci, case, miele intorno, l'aria profuma di fiori, gli occhi tuoi, ciliegie al tramonto. Piccola Alice, tu che cosa fai stasera? Piccola Alice, tu recita una preghiera. Una sera in via Emilio Gola, tra centro sociale, canne, panca, bestia e Coca-Cola, Alice manda giù cartone, una pastiglia viola, si risveglia il giorno dopo in ospedale con la pelle d'oca, ha una bimba nella pancia, ora in cameretta con una lametta, pensa alla sua mamma, vuole abortire ma le amiche le danno speranza, e dopo tre stagioni è nata Grazia. Svegliati, è primavera, dai, luci, case, miele intorno, l'aria profuma di fiori, gli occhi tuoi, ciliegie al tramonto. Svegliati, è primavera, dai, luci, case, miele intorno, l'aria profuma di fiori, gli occhi tuoi, ciliegie al tramonto. Pannolini, voci dei vicini, passeggini, buste della spesa, notti insonni, ma combatti e vivi. Alice, sei felice, hai una famiglia, una radice dove completarti, ironizzando sul futuro che promette passi falsi. Qui in affitto al terzo piano di Lia Gramsci, compi oggi 15 anni, lavi piatti, vai alle superiori, sembra in macchina con Tony, guardi Grazia e ti innamori. Alice, svegliati, è primavera, dai, luci, case, miele intorno, l'aria profuma di fiori, gli occhi tuoi, ciliegie al tramonto. Svegliati, è primavera, dai, luci, case, miele intorno, l'aria profuma di fiori, gli occhi